Molly si era affezionata a me, quando quest'ultima era a proprio agio, i suoi modi erano dolci e accattivanti, ma sentendosi in difficoltà nel proprio ruolo nella casa dello Squire era riluttante nei suoi confronti. Oltretutto lui tirava fuori il suo lato peggiore. Roger era molto ansioso di farli andare d'accordo e si consultò spesso con Molly sui modi più indicati per raggiungere questo obiettivo. Finché parlavano di questo argomento, lei gli si rivolgeva nel modo tranquillo e ragionevole che aveva ereditato da suo padre, ma quando la discussione su questo punto si esauriva, la ragazza si ritraeva di nuovo nell'ostinata affettazione di nostra riservatezza. Per lei fu molto difficile mantenere questo strano atteggiamento, specialmente quando un paio di volte immaginò di avergli arrecato un dispiacere. In queste occasioni andò a chiudersi nella propria stanza e scoppiò improvvisamente in lacrime, desiderando che il suo soggiorno si concludesse e di ritrovarsi di nuovo nella calma monotonia di casa sua. Dopo un po', però, i suoi pensieri mutavano e lei si aggrappava alle ore che passavano in fretta, come per trattenere le gioie di ciascuno. Senza che lei se ne rendesse conto, infatti, Roger si stava sforzando di renderle gradevole quella visita. Egli non desiderava manifestarsi come l'organizzatore di tutti i piccoli progetti di ogni giorno, perché in qualche modo capiva di non occupare più lo stesso posto di un tempo nella stima di Molly. Un giorno però, ahimè, suggerì una escursione per raccogliere le noci. Un altro giorno donarono al piccolo Roger lo sconosciuto piacere di prendere il tè all'aperto. Per una terza persona c'era in serbo qualcosa di piacevole. Ed era Roger a pianificare tutti questi semplici e bei passatempi che egli sapeva avrebbero fatto divertire Molly. Quest'ultima, però, vedeva in lui solo il pronto esecutore delle idee di Aimee. La settimana era quasi passata, quando una mattina lo Squire sorprese Roger seduto nella vecchia biblioteca. Aveva un libro davanti agli occhi, è vero, ma era così assorto nei propri pensieri che l'inatteso ingresso del padre lo fece evidentemente sobbalzare. Sapevo di trovarti qui, ragazzo mio. Prima dell'inverno avremo sistemato la vecchia stanza. So abbastanza di muffa, eppure io vedo che è molto il posto adatto a te. Voglio che tu venga con me per i 5 acri. Sto pensando di seminarci erba. È ora che tu venga a prendere un po' d'aria fresca. Sopra quei libri hai un aspetto di relitto. Libri, libri. Non c'è mai stato niente di peggio per portar via la salute a un uomo. Così Roger uscì con suo padre, senza dire molte parole finché non furono a una certa distanza dalla casa. Allora pronunciò una frase così d'improvviso da restituire a suo padre lo spavento che quest'ultimo gli aveva causato un quarto d'ora prima. Padre, vi ricordate che il mese prossimo ripartirò per il capo? Parlate di risistemare la biblioteca? Se è per me, io starò via tutto l'inverno. Non puoi farne a meno? Lo supplicò suo padre. Pensavo che forse te ne eri dimenticato completamente. Improbabile, replicò Roger con un mezzo sorriso. Bene, però potrebbero trovare un altro uomo per finire il tuo lavoro. Nessuno può concluderlo all'infuori di me. Inoltre è un impegno, è un impegno. Quando scrissi a Lord Hollingford per comunicargli che dovevo tornare a casa, gli promisi di ripartire e star via per altri 6 mesi. Sì, lo so. E forse te lo toglierà dalla testa. Sarà sempre dura per me separarmi da te. Ma penso che per te sia meglio. Roger arrossì. State alludendo a Miss Kirkpatrick? Mrs. Anderson, voglio dire. Padre, lasciate che vi dica una volta per tutte che è stata una cosa piuttosto avventata. Ora sono sicurissimo che non eravamo fatti per stare insieme. Ero disperato quando ho ricevuto la sua lettera al capo, intendo dire, ma credo sia stato meglio così. Così va bene. Questo è il mio ragazzo, affermò lo Squire, voltandosi e stringendo le mani del figlio con veemenza. E ora ti riferirò cosa ho sentito l'altro giorno, quando ero alla riunione dei magistrati. Tutti dicevano che lei ha piantato in asso Preston. Non voglio sentir dire niente contro di lei. Potrà avere i suoi difetti, ma io non potrò mai dimenticare quanto l'ho amata una volta. Bene, bene, forse è giusto. Io non sono stato così pessimo al riguardo, vero Roger? Non c'era bisogno che il povero Osborne facesse tanto il misterioso con me. Ho invitato la tua Miss Cinzia qui, sua madre e tutto, e il mio abbaiare è peggio del mio mordere. Se avevo un desiderio in questa vita, era quello di vedere Osborne sposato come si conviene a uno che appartiene a un'antica famiglia. E lui è andato a prendersi questa ragazza francese che la famiglia non ce l'ha proprio, solo una. Non ha importanza cosa lei sia stata. Guardate com'è adesso. Mi meraviglio, padre, che non siate più colpito dalla sua umiltà che dalla sua dolcezza. Per me non è neppure bella, commentò lo squire a disagio, perché temeva un ripetersi degli argomenti cui spesso Roger ricorreva per indurlo a dare, ahimè, l'affetto e il rispetto che le erano dovuti. Ora, la tua Miss Cinzia era bella, glielo concedo, a quella sfrontata. E pensare che voi due ragazzi siete stati proprio contro vostro padre e vi siete scelti due signorine inferiori per rango e per famiglia. Eppure nessuno dei due si è incapricciato della mia Molly. Direi che all'epoca mi sarei anche potuta arrabbiare, ma la ragazza avrebbe trovato il modo di entrarmi nel cuore, come né questa signora francese né nessun'altra riuscirebbero mai a fare. Roger non rispose. Non vedo perché tu non possa ancora offrirti a lei. Ora sono piuttosto umile e tu non sei l'erede come Osborne che si è sposato una domestica. Non credi che potresti rivolgere i tuoi pensieri a Molly Gibson, Roger? No, ribatté seccamente il figlio. È troppo tardi, troppo tardi. Non parliamo più del mio matrimonio. Questo non è il campo dei cinque acri? E subito dopo si mise a discutere con suo padre le varie qualità del prato, del terreno arativo o della terra da pascolo, con la partecipazione che avrebbe dimostrato se non avesse mai conosciuto Molly o non avesse mai amato Cinzia. Ma lo squire non era dell'umore e prese parte al discorso solo svogliatamente. Infine affermò: Ma non credi che lei ti piacerebbe se ci provassi, Roger? Roger sapeva perfettamente a cosa il padre stesse alludendo, ma per un istante fu sul punto di fingere di non capire. Alla fine, tuttavia, replicò a bassa voce: Non ci proverò mai, padre. Non parliamone più. Come ho detto prima, è troppo tardi. Lo squire agì come un bambino al quale era stato negato un giocattolo. Di tanto in tanto il pensiero della delusione ricevuta in quel frangente gli tornava in mente. Allora egli iniziava a prendersela con Cinzia come la causa primaria dell'attuale indifferenza di Roger nei confronti del genere femminile. Avvenne che durante l'ultima mattina di Molly a Hamley Hall, ella ricevette la prima lettera da parte di Cinzia, Mrs. Henderson. Era proprio prima di colazione, Roger era uscito, ahimè non era ancora scesa. Molly si trovava da sola in sala da pranzo, dove la tavola era già stata apparecchiata. Aveva appena terminato di leggere la sua lettera, quando entrò lo squire e lei immediatamente con gioia gli comunicò ciò che la mattina le aveva riservato. Ma quando notò l'espressione dello squire, avrebbe voluto essersi morsa la lingua per avergli fatto il nome di Cinzia. L'uomo appariva seccato e abbattuto. Vorrei non sentirla mai più nominare. Davvero? È stata la rovina del mio Roger, ecco. Non ho dormito per metà della notte ed è tutta colpa sua. Insomma, il mio ragazzo ora dice che non avrà mai cuore di sposarsi, poveretto. Ah, vorrei che i miei figlioli si fossero incapricciati di te, Molly. Gliel'ho detto a Roger l'altro giorno e gli ho detto che anche se tu eri inferiore a quello che io pensavo per il loro matrimonio, beh, è inutile. È troppo tardi ormai, come ha detto lui. Solo non voglio più sentire il nome di quella sfrontata, ecco tutto. Senza offesa per te, ragazzina. So che vuoi bene a quella lì. Ma se vuoi accettare il consiglio di un vecchio, tu vali cinque volte lei. Vorrei che anche i giovani la pensassero così. Brontolò, avvicinandosi al lato del tavolo per tagliare il prosciutto mentre Molly versava il tè, e nel frattempo il suo cuore ardeva e per un attimo si arrestò. Fu solo con enorme difficoltà che la riuscì a impedire alle lacrime della mortificazione di scendere giù, in quel luogo che per lei era stato come una casa fino alla sua ultima visita. Sentiva in una posizione completamente sbagliata. Tra i commenti di Mrs. Goodenough, e ora questo discorso dello squire che implicava, almeno per la sua suscettibile immaginazione, che suo padre l'avesse proposta come moglie per Roger e che lei fosse stata rifiutata, era più lieta di quanto potesse esprimere o persino pensare di dover tornare a casa propria quella stessa mattina. Roger rientrò dalla passeggiata quando lei si trovava immersa in quei pensieri. Percepì in un attimo che qualcosa aveva turbato Molly e desiderò fortemente avere il diritto di un tempo, da amico, di chiederle di cosa si trattasse. Ma durante gli ultimi pochi giorni la ragazza lo aveva concretamente discretamente tenuta a troppa distanza, perché lui adesso si sentisse libero di parlarle schiettamente, con fare fraterno, come una volta. Soprattutto ora, quando egli si rendeva conto degli sforzi che lei faceva per nascondere i propri sentimenti e del modo in cui beveva il tè in fretta, febbrilmente, e accettava il pane solo per sbriciolarlo nel piatto e lasciarlo lì. In quelle circostanze non aveva altre possibilità per fare conversazione, però sostenne gli sforzi di Molly più che poté fino a che, ahimè, non li raggiunse, seria e preoccupata. Il bambino non aveva avuto una buona notte, sembrava non stare bene. Ora era piombato in un sonno febbricitante, altrimenti lei non l'avrebbe lasciato da solo. L'intera tavola fu subito in fermento. Lo squire spinse via il piatto e non riuscì più a mangiare. Roger tentava di far parlare ahimè della situazione, ma lei era scoppiata in lacrime. Molly propose subito che la carrozza che era stata ordinata per riportarla a casa alle 11 venisse a prenderla subito. I suoi bagagli erano già pronti per ricondurle poi lì suo padre senza indugio. Partendo immediatamente, la disse era probabile che lo trovassero a casa dopo che era tornato dal suo giro di visite mattutine in città e prima che uscisse di nuovo per le sue commissioni più lontane. Scese tutta pronta nel salotto al piano di sotto, aspettandosi di trovarvi, ahimè, lo squire. Ma durante la sua assenza, l'ansiosa madre e il nonno erano stati informati che il bambino si era svegliato spaventatissimo ed entrambi erano corsi di sopra dal loro tesoro. Roger, invece, era lì ad aspettare Molly con un grande mazzo di fiori assortiti. Guardate, Molly, le disse, mentre lei, vedendo che era solo, stava per lasciare di nuovo la stanza. Ho raccolto questi fiori per voi prima di colazione. Le si fece incontro. Lei era riluttante ad avanzare. Vi ringrazio, replicò Molly. Siete davvero gentile. Vi sono molto obbligata. Allora dovete fare qualcosa per me. Riprese lui, determinato a non far caso alla sua ritrosia e sistemando i fiori che lei teneva in mano in modo da creare un legame che li unisse e che le impedisse di seguire l'istinto e lasciare la stanza. Ditemi, onestamente, come so che farete se parlerete? Ho fatto qualcosa che vi ha offesa? Da quando ci siamo trovati così bene insieme alle torri? La sua voce era così gentile e sincera, i suoi modi così accattivanti e pure malinconici, che Molly sarebbe stata grata di potergli dire tutto. Credeva che lui avrebbe potuto aiutarla più di chiunque altro a capire come si dovesse comportare. Lui avrebbe sbrogliato i suoi pensieri, se solo proprio lui non si fosse trovato al centro di tutta la sua perplessità e la sua costernazione. Come potergli confessare che le parole di Mrs. Goodenough avevano turbato il suo pudore? Come potergli ripetere ciò che suo padre aveva dichiarato quella mattina e assicurargli che lei non desiderava più di lui che la loro vecchia amicizia venisse rovinata dall'idea di un rapporto più stretto? No, Roger, voi non mi avete mai offesa in tutta la mia vita, affermò, guardandolo direttamente negli occhi per la prima volta in molti giorni. Vi credo, se dite così, non ho diritto di chiedere altro. Molly, volete restituirmi uno di quei fiori come garanzia di ciò che avete asserito? Prendete quello che preferite, rispose lei, offrendogli volentieri l'intero fascio, così che lui potesse scegliere. No, voi dovete decidere quale fiore regalarmi. Lo squire entrò subito in quel momento. Roger sarebbe stato felice se Molly non avesse continuato così animosamente a frugare nel mazzo di fiori in presenza di suo padre, ma la ragazza esclamò. Oh, per favore, Mr. Hamley, sapete qual è il fiore preferito di Roger? No, direi la rosa. La carrozza è alla porta e Molly, mia cara, non vorrei metterti fretta, ma lo so. Ecco, Roger, prendete una rosa. Ed ella era rossa come una rosa. Troverò papà non appena arrivata a casa. Come sta il piccolo? Temo che gli sta salendo una qualche sorta di febbre. Lo squire l'accompagnò alla carrozza, parlando per tutto il tempo del bambino. Roger li seguiva senza quasi sentire, perché assorto nella risposta alla domanda che continuava a porsi. Troppo tardi o no? Potrà mai dimenticare che il mio primo sciocco amore è stato per una donna così diversa da lei? Molly, invece, mentre la carrozza sfilava via, diceva a se stessa. Siamo di nuovo amici. Non credo ricorderà ciò che il caro Squire si è messo in testa di suggerire per molti giorni. È così bello andare di nuovo d'accordo come una volta. E che bei fiori. Capitolo 60. La confessione di Roger Hamley. Roger ebbe molto a cui pensare dopo aver lasciato il punto da cui era rimasto a guardare la carrozza che si allontanava finché non era sparita. Il giorno precedente, egli aveva creduto che Molly fosse giunta a considerare tutti i sintomi del suo crescente amore per lei, sintomi che lui riteneva così evidenti, come odioso segno di incostanza nei confronti dell'incostante Cinzia. Che lei avesse pensato che un attaccamento che poteva trasferirsi così rapidamente da una persona all'altra non avesse alcun valore, e che avesse desiderato rimarcare questa convinzione cambiando atteggiamento verso di lui così da stroncare sul nascere quel sentimento. Ma quella mattina i suoi modi di un tempo, dolci e schietti, erano ritornati, almeno nel corso del loro ultimo colloquio. Roger si spremette le meningi per scoprire cosa l'avesse turbata all'ora di colazione. Arrivò persino a chiedere a Robinson se Miss Gibson avesse ricevuto delle lettere quella mattina, e quando seppe che gliene era stata consegnata una, tentò di credere che quella missiva fosse la causa della sua sofferenza. E fin lì, tutto bene. Dopo il loro inespresso dissidio, erano tornati amici, ma questo a Roger non bastava. Di giorno in giorno, egli si sentiva più sicuro che Molly e lei sola potesse renderlo felice. Aveva provato questa sensazione rinunciando in parte a tutte le speranze, mentre suo padre insisteva affinché lui intraprendesse esattamente il cammino che più di tutti egli desiderava percorrere. Non c'era bisogno di tentare di amarla, si disse. Quello era già fatto. E tuttavia il giovane era molto geloso, mettendosi nei panni della ragazza. Era degno di lei un amore che un tempo era stato rivolto a Cinzia? Questa situazione non era troppo somigliante all'altra? E anche questa volta, proprio in prossimità del suo allontanamento dall'Inghilterra per un notevole periodo di tempo. Seguirla ora, a casa sua, nello stesso salotto in cui si era dichiarato a Cinzia. Poi, con un grande sforzo, egli decise di procedere così. Ora erano amici e lui baciò la rosa che era il pegno di quell'amicizia. Andando in Africa, egli metteva a rischio la propria vita. Adesso era più consapevole dell'altra volta di quali pericoli esistessero. Fino a che non fosse tornato, non avrebbe neanche provato a ottenere il suo amore più di quanto non avesse già fatto. Ma una volta a casa, sano e salvo, nessuna perplessità su quale potesse o non potesse essere la sua risposta gli avrebbe impedito di tentarle tutte per conquistare la donna che per lui eccelleva su tutte le altre. La sua non era la povera vanità che pensa più all'eventuale mortificazione di un rifiuto che alla possibilità di guadagnarsi un gioiello di sposa. Egli non era più un ragazzo che ricorresse avventatamente un oggetto del desiderio. Era un uomo capace di giudicare e di sopportare. Non appena riuscì a trovare suo padre, Molly lo mandò a Hamley Hall e poi si riprese la sua vecchia vita nel salotto di casa, dove in ogni momento ella sentiva la mancanza della brillante presenza di Cinzia. Mrs. Gibson era di umore piuttosto lamentoso, era rimasta ferita dal fatto che la lettera di Cinzia fosse stata indirizzata a Molly e non a lei. Considerando tutto il disturbo che mi sono presa per il suo corredo, penso che avrebbe dovuto scrivere a me. Ma l'ha fatto. La sua prima lettera era per voi, mamma, replicò Molly, i cui reali pensieri erano ancora concentrati su Hamley Hall, sul bambino malato, su Roger e sulla sua preghiera di avere il fiore. Sì, proprio una prima lettera di 3 pagine con la descrizione della traversata. Mentre a te può scrivere della moda, di come si portano i cappellini a Parigi e ogni sorta di notizia interessante. Ma ho scoperto che le povere mamme non possono mai aspettarsi delle lettere confidenziali. Potete vedere la lettera, mamma, la invitò Molly. Non c'è davvero niente di speciale. E pensare che ha scritto su entrambi i versi a te, che non ci dai alcun valore, mentre il mio povero cuore geme per la mia bambina perduta. Davvero, a volte la vita è molto dura da sopportare. Seguì il silenzio per un po'. Raccontami qualcosa della tua visita, Molly. Roger, è proprio affranto? Parla molto di Cinzia. No, non la nomina spesso, quasi mai direi. Non l'ho mai creduto capace di grandi sentimenti. Se così fosse, non l'avrebbe lasciata andare via così facilmente. Non vedo come avrebbe potuto evitarlo. Quando dopo il suo ritorno venne a trovarla, lei era già fidanzata con Mr. Anderson. Roger venne proprio quel giorno, spiegò Molly, forse con maggiore calore di quanto l'occasione richiedesse. La mia povera testa, fece Mrs. Gibson mettendosi le mani sul capo. Si vede che hai trascorso del tempo con gente di salute robusta e, scusa se dico questo, Molly, a proposito dei tuoi amici, di abitudini poco eleganti. Ti sei messa a parlare a voce così alta? Ma ricordati della mia testa, Molly. Così Roger ha dimenticato completamente Cinzia, eh? Gli uomini sono creature incostanti. Bada ciò che dico. La prossima volta si innamorerà di una qualche eminenza. Stanno facendo di lui un beniamino e una celebrità. Invece non è altro che quel tipo di giovanotto debole che si lascia far girare la testa da qualunque cosa e che chiede la mano di una qualche raffinata signora di alto rango che non penserebbe a sposarlo più di quanto prenderebbe per marito un balletto. Non lo ritengo probabile, obiettò Molly risoluta. Roger è troppo ragionevole per queste cose. Questo è proprio il difetto che ho sempre riscontrato in lui, ragionevole e con il cuore di ghiaccio. Ora, questo è il tipo di carattere che potrebbe anche essere molto pregevole, ma io ne sono disgustata. Datemi un cuore caldo anche con quel cenno di stravaganza emotiva che travi il giudizio e conduce all'idillio. Povero Mr. Kirkpatrick, questo era proprio il suo carattere. Ero solita dirgli che il suo amore per me era proprio romantico. Penso di averti raccontato di quando camminò per 5 miglia sotto la pioggia per andare a prendermi un muffin una volta che ero malata? Sì, confermò Molly. Fu molto gentile da parte sua. E così imprudente anche. Proprio ciò che la tua gente ragionevole, con il cuore freddo e ordinaria, non penserebbe mai di fare. E con la tosse che si ritrovava. Spero non ne abbia patito le conseguenze, commentò Molly, ansiosa di evitare a tutti i costi l'argomento Hamley, sul quale lei e la matrigna si trovavano sempre in disaccordo, e in merito al quale era difficile frenare l'irritazione di Mrs. Gibson. Certo che sì, invece. Non penso che guarì mai dalla tosse che si prese quel giorno. Vorrei che l'avessi conosciuta, Molly. A volte mi chiedo cosa sarebbe successo se tu fossi stata la mia vera figlia e Cinzia, la figlia del caro papà. E Mr. Kirkpatrick e la tua cara mamma fossero rimasti in vita. Si fa un gran parlare di affinità naturali, sarebbe stata una questione adatta a un filosofo. E iniziò a pensare alle circostanze impossibili che aveva menzionato. Mi domando come stia il bambino, riprese Molly dopo una pausa, dando voce ai propri pensieri. Povera creaturina. Quando si pensa a quanto poco si desideri che sopravviva a lungo, si crede che la sua morte sarebbe un dono. Mamma, cosa intendete dire? Chiese Molly sconvolta. Tutti tengono alla sua vita come la cosa più preziosa. Non l'avete mai visto? È il bimbo più bello e dolce che esista. Cosa intendete dire? Oserei dire che al figlio di una serva lo squire avrebbe preferito un erede di miglior lignaggio. Con tutte quelle sue idee sulla discendenza, sul sangue e sulla famiglia. E oserei dire che è stato un po' mortificante per Roger, che naturalmente riteneva di essere l'erede del fratello. Trovare che un bambinetto, un intruso, mezzo inglese, mezzo francese, gli aveva fatto le scarpe. Non sapete quanto gli vogliano bene. Lo squire lo considera la luce dei suoi occhi. Molly, Molly, ti prego di non usare quelle espressioni volgari. Quando ti farò capire che la vera raffinatezza, che la raffinatezza consiste nel non pensare neppure a una cosa volgare e ordinaria? La gente colta non usa mai proverbi e idiomi. La luce dei suoi occhi, sono davvero scioccata. Bene, mamma, mi dispiace assai, ma dopo tutto ciò che volevo dire con il massimo della convinzione era che lo Squire ama quel bambino come se fosse figlio suo e che Roger. Che vergogna pensare che Roger. E si interruppe bruscamente, come se stesse soffocando. Non mi stupisco della tua indignazione, cara, rispose Mrs. Gibson. È proprio come mi sarei sentita io alla tua età, ma invecchiando si impara quanto sia meschina la natura umana. Ho sbagliato tuttavia ad aprirti gli occhi così presto, ma riguardo a questo, il pensiero a cui ho fatto allusione ha attraversato la mente di Roger Hamley. Ogni tipo di pensiero attraversa la mente delle persone. Ciò che conta è che si dia a quelle idee fiato e nutrimento, osservò Molly. Mia cara, se deve avere l'ultima parola, almeno che non sia una banalità. Ma parliamo di qualcosa di più interessante. Ho chiesto a Cinzia di comprarmi un abito di seta a Parigi e le ho detto che le avrei fatto sapere quale colore avevo scelto. Penso che il blu sia quello che si addice di più alla mia carnagione. Che ne dici? Molly si disse d'accordo, piuttosto che prendersi il disturbo di pensare minimamente alla questione. Era troppo assorta nella muta rievocazione di ogni tratto della personalità di Roger, che aveva notato di recente e che smentiva la supposizione della matrigna. Proprio in quel momento udirono i passi di Mr. Gibson al piano di sotto, ma passò un po' di tempo prima che egli entrasse nella stanza dove le due donne sedevano. «Come sta il piccolo Roger?» chiese Molly con interesse. «Temo che abbia preso la scarlattina. È un bene che tu te ne sia andata in quel momento, Molly. Tu non l'hai mai avuta. Per un po' dobbiamo interrompere qualsiasi rapporto con Hamley Hall. Se c'è una malattia che mi spaventa, è questa. Ma tu ci sei stato e sei tornato da noi, papà. Sì, ma io prendo sempre decine di precauzioni. E comunque non ha senso parlare dei rischi che corre una persona che compie il proprio dovere. Sono i rischi inutili che dobbiamo evitare. Sarà un caso grave? Domandò Molly. Non so dirlo. Farò del mio meglio per il mociosetto. Ogni volta che i suoi sentimenti erano coinvolti, Mr. Gibson tendeva a ricorrere alla lingua della sua giovinezza, così Molly comprese che il caso lo toccava particolarmente. Per qualche giorno il bambino fu a rischio, per qualche settimana si dovette lottare con una forma cronica della malattia, ma quando il pericolo immediato passò e con esso il caloroso interesse quotidiano, Molly iniziò a rendersi conto che a causa della stretta quarantena che suo padre aveva evidentemente ritenuto necessario stabilire tra le due famiglie, ella non avrebbe avuto la possibilità di rivedere Roger prima della sua partenza per l'Africa. Se solo avesse sfruttato meglio quei giorni sprecati, trascorsi con lui a Hamley Hall. Peggio che sprecati. In quei giorni ella l'aveva evitato, si era rifiutata di conversare serenamente con lui. Le aveva inflitto un dolore con il cambiamento dei propri modi, nei suoi occhi e nella sua voce. Infatti, Molly aveva percepito la sua perplessità e la sua sofferenza, e ora la sua immaginazione si soffermava, esagerandoli sui suoi toni e sulle espressioni del suo viso. Una sera, dopo cena, suo padre le disse: «Come dicono in campagna, oggi ho fatto un bel lavoro. Io e Roger Hamley abbiamo fuso i nostri cervelli e abbiamo architettato un piano, per cui Mrs. Osborne e il suo bambino lasceranno Hamley Hall». «Cosa ti ho detto l'altro giorno, Molly?» intervenne Mrs. Gibson, interrompendo e rivolgendo a Molly un'occhiata di estrema sagacia. «Per andare in affitto alla fattoria dei Jennings, a neanche 400 yard di distanza dal cancello del parco», riprese Mr. Gibson. «Lo squire e la nuora sono dovuti diventare più amici al capezzale del bimbo malato, e penso che ora lui si renda conto che sarebbe impossibile per la madre abbandonare suo figlio e tornarsene tutta contenta in Francia, l'idea che lui si è tenuto in testa per tutto questo tempo, cioè di corromperla praticamente. Ma quella notte in cui davvero dubitavo che fosse possibile salvare il piccolo, i due hanno pianto insieme, hanno condiviso il loro dolore ed è stato proprio come stracciare la tenda che li aveva tenuti separati. Da allora sono più amici che altro. Però Roger, le guance di Molly si riscaldarono e i suoi occhi si fecero più teneri e luminosi. Era un tale piacere sentir fare il suo nome. E io? Abbiamo convenuto che la madre è più capace di educare il bambino di quanto faccia il nonno. Immagino sia l'unica cosa buona che ha ricavato dalla sua padrona dal cuore di pietra. Di certo è ben addestrata dalle varie bambini e si spazientisce, si infastidisce ed è infelice quando vede che lo squire dà a suo figlio nocciole e birra e ogni sorta di assurda leccornia e lo vizia in tutti i modi possibili. Ma è timida e non dice ciò che pensa. Ora, vivendo in affitto e avendo i propri domestici, tra l'altro le stanze sono proprio carine, siamo andate a vederle, e Mrs. Jennings promette di prendersi grande cura di Mrs. Osborne Hamley ed è molto onorata, eccetera, eccetera. Ha neanche 10 minuti di cammino da Hamley Hall, poi. Lei e il bambino possono facilmente andare e venire ogni volta che vogliono e lei può controllare la sua dieta e la sua disciplina. In breve, penso di aver fatto proprio un buon lavoro», continuò il dottore, stiracchiandosi un po' per poi rimettersi in moto con uno scossone e prepararsi a uscire di nuovo per visitare un paziente che in sua assenza l'aveva mai andato a chiamare. Un ottimo lavoro, ripeté a se stesso correndo giù per le scale. Non so quanto io sia stato più felice. Non aveva riferito a Molly, infatti, ciò che era accaduto tra lui e Roger. Roger aveva introdotto un nuovo argomento di conversazione proprio mentre Mr. Gibson si stava affrettando a lasciare Hamley Hall dopo aver concluso l'organizzazione del progetto a beneficio di Aimee e di suo figlio. Voi sapete che parto martedì, vero, Mr. Gibson? Disse Roger un po' all'improvviso. Certo, mi auguro che avrete lo stesso successo dell'altra volta nelle vostre attività scientifiche e non vi si dia alcun dolore ad attendervi a casa. Grazie, sì, spero di sì. Non pensate che ora ci sia pericolo di contagio, vero? No, se la malattia doveva diffondersi in famiglia, credo che ormai ne avremmo già visti i segnali. Ricordate, non si può mai star sicuri con la scarlattina. Roger tacque per un paio di minuti. Avreste timore, riprese alla fine, di vedermi a casa vostra? Vi ringrazio, ma per ora preferisco declinare il piacere di godere della vostra compagnia lì. Il bambino si è ammalato solo 3 settimane, un mese fa. Inoltre sarò qui di nuovo prima che partiate. Faccio sempre attenzione al comparire di sintomi di edema, mi è capitato di vederli sopraggiungere. Dunque, io non rivedrò Molly, esclamò Roger con un tono e un'espressione di grande delusione. Mr. Gibson rivolse sul giovane i suoi occhi attenti e penetranti e lo scrutò con la stessa attenzione che gli avrebbe dedicato se avesse manifestato i prodromi di una malattia sconosciuta. A quel punto il medico e padre strinse le labbra ed emise un lungo fischio. Aveva capito. Le gote abbronzate di Roger si fecero di colore più intenso. Le porterete un messaggio da parte mia, vero? Un messaggio da Dio? Lo pregò. Non io. Non ho intenzione di fare da messaggero tra un giovanotto e una signorina. Dirò alle mie donne che vi ha proibito di avvicinarvi a casa e che vi dispiace partire senza averle salutate. Questo è tutto ciò che dirò. Ma non disapprovate. Vedo che indovinate. Oh, Mr. Gibson, ditemi una parola di cosa avete nel cuore, anche se fingete di non capire, perché darei tutto quello che ho per vedere Molly un'altra volta prima di partire. Mio caro ragazzo, disse Mr. Gibson, più commosso di quanto volesse dare a vedere, e posando la mano sulla spalla di Roger. Poi si riprese e con molta serietà continuò. Badate, Molly non è Cinzia. Se dovesse volervi bene, non è una persona che potrebbe trasferire il proprio amore sul primo che passa. Non prontamente quanto me, intendete dire, replicò Roger. Vorrei solo che potesse sapere quanto questo mio sentimento è diverso dall'amore infantile che nutrivo per Cinzia. Non pensavo a voi quando ho parlato. Tuttavia, già che potrei aver ricordato che non siete un modello di costanza, sentiamo cosa avete da dire in vostra difesa. Non tanto. Ho amato molto Cinzia. I suoi modi e la sua bellezza mi hanno stregato. Ma le sue lettere brevi, frettolose, che talvolta dimostravano che non si era neanche presa la briga di leggere le mie. Non so dirvi quanto ne ho sofferto. 12 mesi di solitudine, spesso in pericolo di vita, a faccia con la morte. A volte fanno maturare un uomo più di molti anni di esperienza. Eppure agognavo il momento in cui avrei rivisto il suo viso dolce e l'avrei risentita parlare. Poi la lettera al capo, eppure ci speravo ancora. Ma sapete come l'ho trovata quando sono andato lì per avere con lei un colloquio che ci credevo avrebbe rinnovato la nostra relazione. Era fidanzata con Mr. Henderson. L'ho vista camminare insieme a lui nel vostro giardino, civettare con lui a proposito di un fiore, proprio come aveva fatto con me. Riesco a vedere lo sguardo pietoso di Molly mentre mi osservava. Adesso riesco a vederlo. E vorrei prendermi a pugni per essere stato così cieco e stupido da. Cosa penserà mai di me? Come deve disprezzarmi per aver scelto la falsa duessa? Andiamo, andiamo. Cinzia non è così cattiva. È una creatura molto affascinante e imperfetta. Lo so. Non consentirò mai a nessuno di parlare male di lei. Se l'ho chiamata falsa duessa è perché volevo esprimere con la massima forza la mia consapevolezza della differenza che c'è tra lei e Molly. Dovete permettere a un innamorato di esagerare. Inoltre, ciò che intendevo dire era: pensate che Molly, dopo aver visto e saputo che ho amato una persona così inferiore a lei, potrà mai essere indotto ad ascoltarmi? Non lo so, non lo posso dire. E anche se potessi, non vorrei. Posso solo riportare, se vedi qualche conforto, ciò che l'esperienza ha insegnato a me. Le donne sono creature bizzarre, ragionevoli, ed è probabile tanto quanto improbabile che amino un uomo che ha gettato via il proprio affetto. Grazie, signore, lo interruppe Roger. Vedo che intendete incoraggiarmi. Io ho deciso di non accennare minimamente con Molly a ciò che provo finché non sarò tornato, e allora tenterò di conquistarla con ogni mezzo in mio potere. Ho deciso di non ripetere la stessa scena nello stesso luogo, il vostro salotto, per quanto sia tentato. E forse dopo tutto lei mi ha evitato quando è stata qui l'ultima volta. Ora, Roger, vi ho ascoltato abbastanza. Se non avete altro modo di usare il vostro tempo se non parlando di mia figlia, io ce l'ho. Quando tornerete, ci sarà tempo a sufficienza per chiedersi se vostro padre approverebbe un simile fidanzamento. L'altro giorno è stato lui stesso a propormelo, ma allora ero disperato. Pensavo fosse troppo tardi. E con quali sostanze ritenete probabile mantenere una moglie? Ho sempre pensato che questo aspetto fosse stato allegramente dimenticato quando avete stretto quel frettoloso legame con Cinzia. Non sono un mercenario, Molly possiede un po' di denaro indipendente da me, del quale, tra parentesi, lei non sa nulla, non è molto, e qualcosa posso darle io. Ma tutti questi discorsi bisogna lasciarli per quando ritornerete. Dunque, autorizzate il mio affetto? Non so cosa vogliate dire con autorizzare. Io non posso farci niente. Immagino che perdere una figlia sia un male necessario, eppure, notando l'espressione di disappunto sul volto di Roger, è giusto, da parte mia nei vostri confronti, dirvi che preferirei dare mia figlia, la mia unica figlia, ricordate, a voi che a chiunque altro nel mondo. Vi ringrazio, rispose Roger, stringendo la mano a Mr. Gibson, quasi contro la sua volontà. E posso vederla una volta sola prima di partire? Assolutamente no. Adesso parlo da padre e anche da medico. No. Ma il mio messaggio glielo porterete comunque. Lo riferirò a lei e a mia moglie allo stesso tempo, non separatamente. Non farò il mezzano nel modo più assoluto. Molto bene, accettò Roger. Riferite a entrambe con la maggiore intensità che potete quanto mi rammarichi del vostro divieto. Vedo di dovermi sottomettere, ma se non dovessi tornare, vi perseguiterò per essere stato così crudele. Andiamo, così mi piace. Datemi uno scienziato innamorato. Non lo batte nessuno in quanto ad assurdità. Arrivederci. Arrivederci. E voi vedrete Molly questo pomeriggio. Non c'è dubbio. E voi vedrete vostro padre. Ma a pensarci io non faccio sospiri così portentosi. Mister Gibson riferì il messaggio di Roger alla moglie e a Molly quella sera a cena. Non era diverso da ciò che la ragazza si aspettava, dopo tutto ciò che il padre aveva detto a proposito dell'alto rischio di contagio, ma ora che le sue previsioni avevano assunto la forma di una decisione definitiva, il suo appetito svanì. Si rassegnò in silenzio, ma il suo perspicace padre si accorse che, dopo che le aveva parlato e l'aveva preso a giocherellare con il cibo nel piatto e a nasconderne una buona parte sotto coltello e forchetta. Amore versus padre, egli pensò quasi tristemente. Vince l'amore. E anche per lui il resto della cena perse ogni interesse. Mrs. Gibson parlava e parlava e nessuno le prestava ascolto. Venne il giorno della partenza di Roger. Molly tentò con tutte le sue forze di dimenticarsene, concentrandosi su un cuscino che stava preparando per farne dono a Cinzia. A quei tempi si lavorava ancora la lana pettinata. Uno, due, tre. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Tutto sbagliato. La ragazza stava pensando ad altro e dovette disfare i punti. Oltretutto pioveva e Mrs. Gibson, che aveva pianificato di uscire per delle visite, dovette rimanere in casa. Ciò la rendeva irrequieta e nervosa. Continuava ad andare avanti e indietro, avvicinandosi alle varie finestre del salotto per osservare il tempo, come se immaginasse che mentre da una parte pioveva, dall'altra si potesse vedere il sole. Molly, vieni qui. Chi è quell'uomo avvolto nel mantello là vicino al muro del parco, sotto il faggio? È lì da più di mezz'ora. Non si muove e non fa che guardare verso la nostra casa. Penso sia un tipo molto sospetto. Molly diede un'occhiata e in un attimo, sotto i vari strati di sciarpa e mantello, riconobbe Roger. Il suo primo istinto fu di ritrarsi. Poi però si fece avanti e disse: Ma mamma, è Roger Hamley! Guardate, ora sta mandando un bacio sulla punta delle dita. Ci Ci sta salutando nell'unico modo che gli è consentito. E rispose al suo saluto, ma non era certa che lui avesse notato il proprio cenno lieve e modesto, perché Mrs. Gibson si fece immediatamente così espansiva che Molly immaginò che i suoi esaltati e sciocchi movimenti da pantomima dovessero attirare tutta l'attenzione del giovane. Lo reputò molto premuroso da parte sua, osservò Mrs. Gibson nel mezzo di una raffica di baci. Proprio romantico, sì. Mi ricordi i miei tempi. Ma arriverà in ritardo. Devo mandarlo via. Sono le 12:30. Si tolse l'orologio e lo sollevò, tamburellando con l'indice e posizionandosi proprio al centro della finestra. Molly poteva solo sbirciare da una parte e dall'altra, infilandosi prima su e poi giù, ora da un lato, ora dall'altro, di quelle braccia che continuavano ad agitarsi. Le parve di vedere un cenno di risposta da parte di Roger e alla fine lui se ne andò, lentamente, lentamente, guardandosi spesso indietro nonostante i cenni con l'orologio. Mrs. Gibson finalmente si allontanò e Molly prese il suo posto in silenzio per vedere ancora una volta la figura del giovane prima che la svolta della strada la celasse alla sua vista. Anche lui sapeva da dove poteva dare un ultimo sguardo alla casa dei Gibson e si voltò ancora una volta e il suo fazzoletto bianco si agitò nell'aria. Molly sventolò il proprio su in alto, desiderando con tutto il cuore che egli riuscisse a vederlo. E poi se n'era andato. E Molly ritornò alla propria lana pettinata, felice, radiosa, triste, contenta, e pensò quanto fosse dolce l'amicizia. Quando tornò in sé, Mrs. Gibson stava dicendo: Parola mia, sebbene Roger Hamley non sia mai stato un mio prediletto, questa sua piccola premura mi ha ricordato molto intensamente di un giovanotto davvero affascinante. Un soupirant, direbbero i francesi, il tenente Harper. Devo averti parlato di lui, Molly? Penso di sì, confermò la ragazza distrattamente. Bene, ti ricorderai di quanto mi era devoto quando mi trovavo da Mrs. Ducombe, il mio primo posto di lavoro, quando avevo solo 17 anni. E quando il reggimento fu trasferito in un'altra città, il povero Mr. Harper venne e rimase per quasi un'ora fuori dalla finestra dell'aula scolastica. E io seppi che fu per suo ordine che la banda suonò alla ragazza che ho lasciato quando il giorno dopo marciarono via. Povero Mr. Harper. Era prima che incontrassi Mr. Kirkpatrick. Povera me. Quante volte il mio povero cuore ha dovuto sanguinare in questa mia vita. Non che il caro papà non sia un uomo pregevole e non mi renda molto felice. Mi vizierebbe in effetti se glielo permettessi. E però non è ricco come Mr. Henderson. Quest'ultima frase conteneva il germe dell'attuale rimpianto di Mrs. Gibson. Avendo fatto sposare Cinzia, come diceva, prendendosene il merito come se il risultato fosse stato ottenuto soprattutto grazie a lei, ora la madre era un poco invidiosa dell'ottima fortuna capitata alla figlia, essere la moglie di un uomo giovane, bello, ricco e tollerabilmente alla moda che viveva a Londra. Confidò ingenuamente al marito i propri sentimenti a riguardo un giorno in cui non stava bene e di conseguenza nella sua mente le lagnanze erano più evidenti dei motivi di contentezza. È un vero peccato. Osservò, essere nata quando sono nata. Mi sarebbe piaciuto così tanto appartenere a questa generazione. A volte mi sento così anch'io, convenne il marito. La scienza sembra ora aprirsi a tante idee così innovative che mi piacerebbe, se fosse possibile, vivere fino a che la loro veridicità non fosse confermata e vedere a cosa possano condurre. Ma immagino che questa non sia, mia cara, la ragione per cui tu vorresti avere 20 o 30 anni di meno. In effetti no, e comunque io non mi sono espressa così sgradevolmente con tanta rudezza, ho solo detto che mi piacerebbe appartenere a questa generazione. A dire la verità, stavo pensando a Cinzia, senza vanità. Credo di essere stata bella quanto lei quando ero ragazza, voglio dire, non avevo le sopracciglia scure, però il mio naso era più dritto. E ora, guardate che differenza. Devo vivere in una città di campagna, con tre domestici e nessuna carrozza. E lei, con il sospetto meno avvenente, vivrà a Sussex Place. Avrà un brougham e un cocchiere e non so che altro. Ma il fatto è che in questa generazione ci sono molti più giovanotti ricchi di quando ero ragazza io. Oh, è questa la ragione allora, mia cara? Se fossi stata giovane adesso, avresti sposato un uomo benestante come Walter? Sì, rispose lei. Credo che la mia idea fosse questa. Naturalmente mi sarebbe piaciuto che si fosse trattato di voi. Penso sempre che se vi foste dato alla giurisprudenza avreste avuto maggiore successo e avreste anche vissuto a Londra. Quindi Suppongo che a Cinzia non importi granché di dove abita, però vedete, le è capitato. Cosa? Londra? Oh, caro, che spiritoso! Ecco, questo è proprio ciò che avrebbe conquistato una giuria. Non credo che Walter sarà mai intelligente quanto voi. Però lui può portare Cinzia a Parigi, all'estero, ovunque. Spero solo che tutta questa sua generosità non alimenti i difetti del carattere di Cinzia. È passata una settimana dalla sua ultima lettera e io le ho scritto con una certa sollecitudine per chiederle informazioni sulla moda autunnale prima di comprarmi il cappellino nuovo. Ma essere ricchi è una gran trappola. Sii grata del fatto che questa tentazione ti sia risparmiata, cara. No, non lo sono. A tutti piace essere tentati e dopo tutto è molto facile resistere alle tentazioni se si vuole. E non lo trovo così facile, obiettò il marito. Ecco la vostra medicina, mamma, disse moglie entrando con una lettera in mano. Una lettera di Cinzia. Oh, cara piccola foriera di buone nuove. Nelle domande di Miss Mangnall c'era una divinità pagana che aveva proprio questo compito. La lettera è datata da Calais. Stanno tornando a casa. Mi ha comprato uno scialle e un cappellino, la cara creatura. Pensa sempre agli altri prima che a se stessa. La buona sorte non la può corrompere. Rimangono ancora 15 giorni prima della fine della loro vacanza. La loro casa non è ancora pronta. Stanno venendo qui. Ora, Mr. Gibson, dobbiamo comprare da Watts quel servizio di piatti per la cena che desidero da tanto tempo. Questo posto Cinzia lo chiama casa. Di sicuro è stata una casa per lei, povera cara. Dubito che esista un altro uomo al mondo che avrebbe trattato una figliastra come ha fatto il caro papà. E Molly, tu dovrai avere un abito nuovo. Andiamo, andiamo. Ricorda che appartengo alla vecchia generazione, disse Mr. Gibson. E Cinzia non noterà cosa indosso, aggiunse Molly, illuminata dalla gioia al pensiero di rivederla. No, ma Walter sì. Ha un occhio molto attento per l'abbigliamento e io penso di poter competere con papà. Se lui è un buon patrigno, io sono una buona matrigna e non posso sopportare di vedere apparire la mia Molly sciatta e non al meglio di sé. Anch'io devo comprare un vestito nuovo. Non sarebbe opportuno mostrarci come se non possedessimo altro che gli abiti che abbiamo indossato il giorno delle nozze. Molly però si oppose all'acquisto di un nuovo vestito per sé e insistette sul fatto che se Cinzia e Walter dovevano venire a trovarli con frequenza, era meglio farsi vedere da loro per ciò che si era davvero, per abbigliamento, abitudini e impegni. Quando Mr. Gibson ebbe lasciato la stanza, Mrs. Gibson rimproverò gentilmente Molly per quella sua ostinazione. Avresti dovuto permettermi di chiedere anche un nuovo abito per te, Molly, sapendo quanto avevo ammirato quel modello di seta da Brown l'altro giorno. E ora, naturalmente, non posso essere così egoista da prenderne uno per me, quando tu non avrai nulla. Dovresti imparare a comprendere i desideri degli altri. Comunque, tutto sommato, sei una ragazza dolce e cara e io vi voglio solo. Beh, lo sai cosa voglio. Solo che al caro papà non piace che se ne parli. E ora, coprimi bene e lasciami andare a dormire e a sognare della mia cara Cinzia e del mio scialle nuovo. Fine.